affrontar la sua vera credenza. Così per combattir questa strana demenza. E di un frodo ufficial, un peschino impostore, alla gloria ne sia, una sede che non credendo l'ufficial. Frodo ne sia, e la stella passata, e la stella passata. E tesori e guerrier ad un tal venturier che mai nulla operà. Di te,